diverso, sono diversi i miei occhi. In questo bar è l'unica che non beve. E balla e basta, guai a te se la tocchi. Seduta al banco ordino un altro whisky. Cerco di non guardare fisso il mio barbon. Fuori fa freddo, il vento muove la neve. Guardo il bicchiere ma la vedo riflessa. Le balla e basta, lei è sempre la stessa. Ehi, whisky Lisa, Elisa, fammi vedere chi sei. Fammi vedere chi sei. Salma, dammi un altro whisky, voglio ubriacarmi di lei. Ehi, whisky Lisa, Elisa, se io potessi vorrei. Se io potessi vorrei. Spegnermi chiudendo gli occhi e non pensare per lei. Lei è diverso, sono diversi i miei sogni. E lì che affondo dentro questo bicchiere. Il suo mestiere è farsi desiderare. Le balle io non la potrò mai avere. Ehi, hey, whisky Lisa, Elisa, voglio sapere chi sei. Voglio sapere chi sei.